Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, di nuovo sotto i riflettori il gruppo risanamento, la vicenda Zunino e ancora le indagini della Procura, i crediti concessi. Stiamo ragionando di cifre tra i 2 miliardi e 8 e i 4 miliardi circa, se si sommano anche le società controllanti. Poi chiaramente anche un po' di polemica sul fatto che, ne parleremo più avanti, insomma, le banche, che per definizione dello stesso governatore Draghi hanno, soprattutto i 5 grandi gruppi bancari, hanno ristretto il credito, non lo diciamo noi, lo dice il governatore della Banca d'Italia. Ebbene, però poi con alcuni soggetti erano un po' più permissive, flessibili. Diciamo che i primi calcoli vedono nella situazione contabile di Zunino un 35 euro di prestiti bancari per ogni euro di capitale proprio. Quindi evidentemente credevano nell'operazione, mettiamola così. Prima di tutto però parleremo della doppia lettura. Alcuni giornali hanno voluto contrapporle, a mio avviso è un po' eccessivo, tra il ministro dell'economia Tremonti ieri e il governatore della Banca d'Italia Draghi. Sempre ieri, poi Draghi oggi è tornato sui temi dello scudo fiscale in audizione in commissione antimafia, ha fatto notare come negli altri paesi l'anonimato non sia previsto. Il rischio grosso, ne abbiamo già parlato anche con vari esperti, è che insomma, lo scudo fiscale è uno strumento che viene anche utilizzato in altri paesi. Certo, dire che non può essere operato per i capitali illeciti, quando poi non è che i capitali illeciti abbiano nome e cognome, diventa il rischio paventato sempre in questo caso dal governatore della Banca d'Italia è di dare una mano al riciclaggio del denaro sporco, denaro da proventi di mafia, droga, contrabbando e quant'altro. Ed è un rischio reale. Noi, lo dico a chi sta già scrivendo, non abbiamo mai manifestato un dubbio così ideologico sullo scudo fiscale. Ripeto, lo hanno fatto anche altri paesi. Diverso però a dire tuteliamo anche il riciclo del denaro frutto degli investimenti della criminalità organizzata. Poi parleremo anche della trimestrale Fiat in chiaroscuro, lo dico non per avere una posizione alla Ponzio Pilato, ma perché obiettivamente anche i commenti degli analisti fanno notare alcuni elementi migliori delle attese, altri peggiori. La borsa dà un giudizio complessivamente negativo, anche se non in maniera pesante. Il titolo perde 1,50 euro, ma resta vicino agli 8 euro per azione, 7,82 euro per quello che riguarda il gruppo del Lingotto. Complessivamente, visto che parliamo di borsa, segnalo un FTSE MIB in rialzo ancora di uno 0,6%, FTSE All più 0,4%, Parigi invariata, Francoforte guadagna lo 0,6%, Londra lo 0,1%, l'America lo 0,17%. Sarà interessante riflettere anche sull'analisi americana, perché a livello di andamento economico, perché anche lì iniziano a esserci i primi commenti non totalmente negativi. Ne ha parlato oggi uno su tutti il numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke, il quale appunto ha oggi un errore, ne ha parlato ieri in serata. Ha detto insomma, i segnali di stabilizzazione dell'economia ci sono, i tassi comunque resteranno bassi per un periodo esteso e rallenta comunque il rallentamento dell'economia. Cioè sembra un gioco di parole, ma insomma rallenta il tasso di rallentamento, se vogliamo usare in qualche modo anche frasi apparentemente un po' ambigue. In realtà è chiaro che il tasso di caduta si è rallentato e inizia ad esserci qualche segnale di ripresa. 349-238-6666 per gli sms. Subito le notizie in breve. La borsa intanto, il miglior titolo oggi è Ansaldo STS, che lo ricordo è una controllata del gruppo Finmeccanica, si occupa, abbiamo avuto anche ospite il suo numero uno, si occupa della segnaletica ferroviaria ma anche metropolitana, perché tutti i sistemi di segnalazione e anche di controllo, più 6,5% sopra i 14 euro per azione. E qui c'è una notizia che riguarda anche il mercato, ne parleremo poi durante l'aggiornamento di borsa, perché Ansaldo ha ricevuto una commessa da 540 milioni per la segnaletica sulla linea ferroviaria, sulla rete ferroviaria libica. Bene anche Bulgari, più 3,80%, Telecom più 3,5%, Luxottica più 2,6%, Parmalat più 2,3%, Buzzi più 1,6% come Enel, 1,4 Geox, 1,2 Terna e un punto di rialzo per Monte dei Paschi e Mediobanca, Italcementi più 0,90. Oltre a Fiat invece perde la Popolare di Milano, meno 1,2, l'Automatica meno 1%, Autogrill meno 0,90 come Eni, lo 0,7 lo perde Fondiaria Sai, lo 0,4 Tenaris, Saipem e A2A. Stabile ma sempre sopra l'1,40, il rapporto 1,4 con il dollaro, la moneta unica europea, l'euro infatti quota 1,4221 per la precisione. Prezzo del petrolio torna in rialzo a $64,7 al barile dopo il calo delle scorte di greggio americane, resta comunque un livello, lo abbiamo detto più volte, abbastanza accettabile. $64, $60, $58, ha toccato i 70 un mese fa, insomma siamo a $80 in meno al barile rispetto a un anno fa, quando il petrolio, ricordate, quotava $147 al barile. E adesso alcuni dati trimestrali delle grandi gruppi americani, anche qui in chiaroscuro, non è una frase fatta, la ripresa non è mai univoca, o meglio la fine della caduta non è mai univoca, per cui vediamo da un lato oggi il gruppo bancario Morgan Stanley avere una perdita di $159 milioni, peggiore di ogni attesa, tant'è che si calcola una perdita di $1.37 per ogni azione, le stime erano di 54 centesimi, per cui tre volte quasi superiore alle attese, e tant'è che nel secondo trimestre dell'anno scorso Morgan Stanley aveva un utile di $689 milioni, quest'anno nello stesso periodo ha un rosso di $159 milioni. Ma invece meglio delle attese l'utile trimestrale della Boeing, e quindi chi produce aeroplani, praticamente $1.41 per azione, e utile record per la Wells Fargo, il gruppo è il gruppo più importante al mondo nel trasferimento di denaro, fa anche altre attività chiaramente, però ha chiuso il secondo trimestre con profitti in aumento dell'81% a $3,170 milioni, quasi, anzi più che duplicati rispetto a un anno prima. Ha però dovuto comunicare anche un brusco aumento dei crediti in sofferenza, sono quei crediti che diventano difficilmente esigibili, si ritiene che possano non essere più questi soldi ritornati, si chiamano in sofferenza. Ebbene, nel secondo trimestre più 45% dei crediti in sofferenza per la Wells Fargo, ma quota $18 miliardi. Le trimestrali di casa nostra oggi, chiaramente tutta l'attenzione è concentrata su Fiat. Allora, la perdita netta del gruppo nel secondo trimestre 2009 è stata di €179 milioni, e questa è una notizia non bella, anche perché nel secondo trimestre del 2008 il gruppo aveva chiuso con un utile di €649 milioni. I ricavi del gruppo fanno un meno 22% e il risultato della gestione ordinaria cala di €821 milioni. Però cala anche l'indebitamento netto, scende a 5,7 miliardi, con un miliardo in meno praticamente rispetto alla fine del primo trimestre, e aumenta la liquidità. Ecco perché dicevo dati in chiaroscuro, cioè la parte operativa sembra andare peggio, anzi va peggio dell'anno scorso, la parte dei fondamentali di bilancio, per cui indebitamento, quanti debiti hai, liquidità, quanti soldi hai a disposizione, va meglio, dell'anno scorso. Infatti Fiat conferma comunque gli obiettivi del 2009 e dichiara che l'utile sarà superiore alle attese e superiore soprattutto a 1 miliardo di euro, e l'indebitamento del gruppo scenderà sotto i 5 miliardi di euro. Ancora gli ordinativi all'industria italiana, e qui passiamo quindi al primo tema, e mi riferisco appunto alle analisi che vengono fornite dal Ministero dell'Economia da un lato, dalla Banca d'Italia dall'altro. Noi le agganciamo come sempre in questo programma ai dati di cronaca. La cronaca oggi vede il dato europeo sugli ordinativi all'industria, un dato molto importante perché gli ordinativi danno l'anticipazione di quello che poi succederà al fatturato dell'industria e alla produzione industriale, da un lato. Dall'altro abbiamo anche alcuni elementi più a livello di sondaggio, quindi di indagine, raccolti dalla Confcommercio, che segnano famiglie in cui l'ottimismo aumenta, anche se tutti sono perfettamente consci che l'uscita da questa crisi sarà difficile. E allora, visto che il chiaro scuro sembra oggi il colore del programma, iniziamo con il primo tema. Ripeto, parlare di dati in chiaro scuro non vuol dire necessariamente avere un atteggiamento pilatesco nei confronti della situazione economica. In Europa gli ordinativi dell'industria meno 0,2%, in Italia meno 0,5%, e anche in Italia, che nel dato è di maggio rispetto ad aprile, c'è il segno meno, ma è un meno pesante del meno di aprile. Ormai oggi giochiamo, fra un po' arriveremo al calembour. Comunque è un meno pesante, perché ad aprile vi fu un meno 3% negli ordinativi industriali, adesso siamo un meno 0,5%. Peggiore invece la situazione in Irlanda, pesantissimo il calo, meno 13%, in Spagna, la Spagna è oggettivamente azzoppata alla faccia del sorpasso sull'Italia, lasciatemelo dire, meno 4,6%, bene, molto bene la Germania, più 4%, fondamentale per noi e per le nostre imprese che devono esportare in Germania, quindi tutta l'asse pedemontana del paese, diciamo da Varese a Treviso, più 4,2%, in Olanda più 9,7%, in Portogallo più 7%, Francia ferma. Da questo quadro esce quindi un'idea di ordinativi industriali ancora in calo, ma ormai con cali vicini allo zero, e che la situazione stia migliorando anche se resti pesante sembrano capirlo molto bene le famiglie italiane, perché dicono l'ottimismo complessivo aumenta, anche se dall'indagine realizzata da Confcommercio con il Censis l'uscita dalla crisi sarà oggettivamente complessa. Praticamente le famiglie che guardano al futuro con ottimismo sono il 56%, quasi il 57% contro il 52% di gennaio, però un terzo resta pesantemente pessimista. La maggior parte però conferma che l'uscita sarà lenta, tant'è che il presidente della Confcommercio Sangalli parla di deboli segnali di ripresa, anche se la parte più acuta della crisi sembra superata. La crisi morde ancora, perché è una crisi profonda e strutturale, e anzi noi nutriamo delle forti preoccupazioni per l'autunno, però ci sono degli indicatori che ci fanno dire, o meglio ci fanno sperare, che la fase acuta della crisi sia ormai alle spalle, perché insomma, i consumi da 4 mesi non sono più in caduta libera, i mercati finanziari sono in leggera ripresa da marzo. A giugno la produzione industriale ha registrato un dato positivo. Migliora il clima di fiducia delle famiglie. Allora resta valida la nostra richiesta di compatibili misure di riduzione della pressione fiscale sui redditi di lavoro per sostenere la domanda interna e i consumi delle famiglie, e soprattutto per contrastare la spirale pericolosa e negativa tra crisi dei consumi ed aumento della disoccupazione. Quanto Questo sul fronte delle famiglie, fotografate dall'indagine Confcommercio Censis. Per quello che riguarda i posti di lavoro, invece, il CNEL oggi dice: attenzione, anche qui sembra ormai un ritornello, però è tipico dei momenti di passaggio, delle fasi di transizione, non solo nel corso di una vita, ma anche nel corso di un ciclo economico. Il CNEL dice: abbiamo superato il punto più basso della recessione, ma attenzione, la disoccupazione potrebbe arrivare al 9% nel 2009 e ci potrebbe essere, ci sono circa 500.000 di posti di lavoro a rischio nel 2009, oltre a quelli, diciamo, già persi. Lo dice il CNEL nel rapporto sul mercato del lavoro, confermando purtroppo che la disoccupazione continuerà ad aumentare e il ricorso agli ammortizzatori sociali, e quindi cassa integrazione, ma non solo, sarà ancora significativo. Sugli ammortizzatori sociali e sulla cassa integrazione era intervenuto anche il governatore della Banca d'Italia, Draghi. Ve lo faccio ascoltare, perché ieri Draghi ha parlato in audizione in serata e chiaramente era troppo tardi per questo programma. Ascoltiamo Draghi proprio sulla cassa integrazione dire: attenzione, potrebbe non bastare lo stanziamento attuale sulla cassa integrazione. Le misure anticrisi del governo hanno opportunamente mirato a prevenire l'interruzione del rapporto di lavoro e hanno introdotto interventi sperimentali a sostegno del reddito di una parte di lavoratori meno protetti. Resta tuttavia necessaria una riforma complessiva del nostro sistema di ammortizzatori sociali. L'indagine congiunturale sulle imprese manifatturiere dell'ISAE registra primi segnali di un arresto del deterioramento delle prospettive occupazionali nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, senza una netta inversione di tendenza nella dinamica della produzione industriale, che seppur stabile negli ultimi tre mesi rimane del 25% circa inferiore al picco raggiunto nell'aprile dell'anno scorso, è possibile che neanche il ricorso alla CIG, finora assai efficace, possa contrastare una riduzione degli organici. Così il governatore della Banca d'Italia, Draghi, che adesso ascoltiamo anche sulla visione complessiva. Devo fare una correzione, avete ragione, Ansaldo fa segnalamento, non segnalazione. È un mio refuso, chiedo venia, il segnalamento dei nei binari, nelle linee ferroviarie, nelle linee metropolitane, comunque si chiama tecnicamente segnalamento. La segnalazione è quella che è arrivata invece giustamente al 349-238-6666. Sulla cavolata che ho detto. Andiamo avanti, professor Franco Bruni, buonasera. Buonasera. Allora, chiaroscuro, bianco e nero, qua siamo allo yin e lo yen, tutti tendono a dire la situazione è in miglioramento, il punto di caduta, il punto più basso è stato superato, però attenzione, con quell'espressione inglese yes but. Ascoltiamo yes but detto dal governatore Mario Draghi ieri sera e anche dal suo omologo americano, ossia il presidente della Federal Reserve Ben Bernanke. Li mettiamo uno accanto all'altro così si capisce come, diciamo, la linea, la prospettiva italiana sia anche in parte quella americana. L'economia italiana sta affrontando una recessione profonda che fa seguito ad un lungo periodo di crescita modesta. La fase di progressivo peggioramento della congiuntura sembra essersi arrestata. Vi sono alcuni segnali positivi. Trainata dalla ripresa mondiale, l'attività produttiva tornerebbe a crescere nel corso del 2010. Resta tuttavia prioritario dare sostegno al sistema produttivo. Occorre evitarne un indebolimento strutturale. L'uscita dal mercato di un gran numero di imprese ridurrebbe il potenziale produttivo del Paese, con costi rilevanti anche in termini di capitale umano. La politica di bilancio deve proseguire nello sforzo di riallocazione delle risorse, accrescendo quelle destinate al lavoro e alle imprese. La definizione immediata di interventi strutturali che nel medio termine assicurino il contenimento della spesa e la riduzione del debito pubblico accrescerebbe i margini per un'azione più vigorosa di contrasto alla crisi. Una strategia organica di riforme strutturali, alcune delle quali sono in corso di attuazione o elaborazione, può rendere più efficaci le azioni da attuare nel breve periodo, dare certezza a famiglie e imprese, creare le condizioni affinché il sistema produttivo si porti su un sentiero di crescita più elevato. Aggressive policy actions taken around the world last fall may well have averted the collapse of the global. Le azioni intraprese lo scorso autunno in tutto il mondo hanno contribuito ad evitare il collasso del sistema finanziario, un evento che avrebbe avuto effetti disastrosi e prolungati per l'economia mondiale. Nonostante le azioni intraprese, lo shock finanziario che ha colpito l'economia globale a settembre e ottobre è stato il peggiore dagli anni 30. Ha inoltre concorso a spingere l'economia nella recessione più profonda dalla Seconda Guerra Mondiale. L'economia americana si è contratta significativamente nell'ultimo trimestre 2008 e nel primo di quest'anno. Più recentemente, il tasso di declino dell'economia è rallentato significativamente. La domanda interna e la produzione hanno mostrato tenui segnali di stabilizzazione. Tuttavia, il mercato del lavoro ha continuato ad indebolirsi. Per stimolare la ripresa economica, la Federal Reserve lo scorso anno ha portato i tassi di interesse al minimo storico, tra lo 0 e lo 0,25%. Posso dire che intendiamo mantenere i tassi così bassi per un periodo prolungato. Allora, professor Franco Bruni, abbiamo sentito sia il nostro governatore della Banca d'Italia, sia il presidente della Federal Reserve, con due elementi diversi, però dire, insomma, lo sforzo è stato intenso, dovremmo aver superato il punto più basso. Draghi diceva anche, buttate giù al governo le priorità, le riforme strutturali, qualcosa che non vada solo a operare nel brevissimo termine, in modo da poter dare anche ai consumatori, alle imprese un orizzonte, che è un po' quanto lei scrive. Lei insegna economia monetaria internazionale a Bocconi di Milano, ma scrive anche sulla Stampa, quanto lei scriveva inizio luglio: attenzione all'economia della vista cortissima. Possiamo dare un primo giudizio se è vero che questa, che siamo oltre la parte peggiore della crisi, che in Europa questa crisi è stata affrontata senza l'Europa? Sì, l'Europa non ha avuto sufficiente capacità di coordinamento e di decisione comune, in particolare nelle politiche di bilancio, e questo ha lasciato ciascun paese in una posizione debole, isolata, dove era difficile essere aggressivi, diciamo, con la congiuntura. Quindi questo è in un certo senso è una scusa per ciascuno dei nostri paesi di avere fatto poco e male, perché non siamo riusciti a farlo insieme, insomma. Questo è anche da parte del nostro governo, indubbiamente c'è stata una prudenza che forse eccessiva, ma era difficile essere più coraggiosi in isolamento, ecco, questo senz'altro. Con questo bisognerebbe avere una prospettiva di più lungo periodo, più organica, per dare alle aspettative della gente un quadro di riferimento più chiaro. Quindi le riforme, i tagli di spesa, eccetera, andrebbero pianificati su un orizzonte più lungo, le priorità di spesa e così via. Dopodiché, nel realizzare queste cose occorre prudenza, occorre così anche un certo opportunismo, ma un conto è realizzare, un conto è disegnare il piano, e il nostro governo, devo dire che da questo punto di vista esita troppo ad aprire una discussione approfondita. Lei dice sulle riforme strutturali, pensioni, ma non solo, welfare, nuovi ammortizzatori sociali, liberalizzazioni. Giustamente alcuni ricordano al 349-238-6666 dove sono finite le liberalizzazioni, ce lo chiediamo anche noi, visto che i farmacisti stanno riprendendosi i vecchi prezzi. Costano i vari capitoli di spesa, questo gli italiani devono saperlo. Noi all'università vogliamo sapere e vogliamo discutere quanti soldi ci saranno per le università, le scuole, gli ospedali, le carceri. E la spesa pubblica è più del 50% del PIL, è una cosa enorme. Noi abbiamo bisogno di avere un quadro di riferimento, altrimenti viene meno anche la democrazia, secondo me, perché quei provvedimenti presi a pezzettini, quando si può, non c'è un vero dibattito su cosa deve essere la metà dell'economia italiana. Stiamo parlando del 50%, del 52% anzi ormai. Allora, io non voglio fare l'avvocato, non ho nessun bisogno del ministro Tremonti, però possiamo dire che da un una cosa è reagire all'emergenza, il decreto anticrisi è un decreto forse arrivato un po' tardi, ma sicuramente che va a cercare di tamponare alcune situazioni di difficoltà, penso soprattutto al credito alle piccole e medie imprese, la detassazione della parte degli utili reinvestiti, insomma un insieme di elementi di emergenza, di tamponamento di una situazione che rischiava poi, nel momento in cui la crisi da finanziaria è diventata economica, di accelerare anche un processo recessivo nel paese. Adesso, se ho ben capito il suo ragionamento e anche quello del governatore Draghi, è il momento di sedersi attorno a un tavolo. Se è vero che il punto più basso è stato superato, che la minaccia, l'Armageddon, come l'ha chiamato Tremonti, è stato evitato, ci si può sedere e iniziare a dire, vabbè, fatto 100 quello che ho a bilancio, dove vanno questi soldi, qual è la destinazione dei fondi pubblici, ho capito bene? Questo e quali interventi sì, verranno fatti, perché non è vero che secondo me è l'ottimismo a tutti i costi che fa bene alla domanda. Quello che fa bene alla domanda è un realismo, ma soprattutto una buona informazione sui progetti futuri. Il problema è che abbiamo di fronte spesso governi che diciamo fanno grandi disordini nel breve periodo. Se vogliamo incoraggiare la gente, anche le imprese, a investire, eccetera, più che raccontargli una storia che tutto va bene, bisogna fare un progetto e dire nei prossimi 10 anni cercheremo di muoverci in questo modo, dopodiché vediamo, lo possiamo farlo adesso, lo possiamo fare un po' dopo. Sul timing delle cose si può essere opportunisti e prudentissimi, ma però bisogna essere chiari nel progetto. Dal che io capisco due cose: che ogni paese europeo sta uscendo da questa crisi a modo suo, per cui la Germania con un suo piano, la Gran Bretagna con un suo piano, la Spagna vedremo come, l'Irlanda pure, l'Italia anche, ma insomma l'Europa è esistita solo ed esclusivamente come politica monetaria e non, quindi tassi di interesse, Banca Centrale Europea, costo del denaro, ma non come politica economica. Se ne è tanto parlato, Sarkozy attaccava la Banca Centrale Europea, la Merkel la difendeva, ma alla fine le chiacchiere stanno a zero, come dicono a Roma, per cui nessun piano europeo è mai passato. Secondo aspetto, che adesso è il momento di venire meno, che vengano meno i decreti di emergenza, i decreti dettati dalla congiuntura, e iniziare a capire come spendere questi soldi, anche perché concludo di nuovo con Mario Draghi nel ringraziare Franco Bruni, appunto editorialista della Stampa e docente di economia monetaria internazionale alla Bocconi di Milano, anche perché sicuramente da questa crisi, come altri paesi, stiamo uscendo o usciremmo con un aumento del debito pubblico e del rapporto soprattutto PIL deficit, perché quando il PIL va a meno 5% è difficile che il rapporto migliori. Anche su questo si è concentrato ieri il governatore Draghi. Che tipo di Italia esce fuori dalla crisi quando la ripresa partirà? Saremo su un sentiero di crescita più elevato di quello degli ultimi anni oppure no? E che dobbiamo essere sul sentiero di crescita più elevato di quello degli ultimi anni è un fatto, è importante, è una necessità assoluta, perché avremo un più alto capitale, un più alto debito, scusate, più alto debito che viene come eredità della crisi, avremo un più alto debito che viene dall'accentuato pensionamento se non cambiamo nulla. Quindi è importantissimo che noi torniamo a crescere a un livello più elevato degli anni scorsi. Quindi attenzione al debito. Poi c'è l'aspetto del credito bancario. Non è che il credito bancario si sia sbloccato come tema, sia finito come tema, e quindi tutte le piccole imprese, gli artigiani, le imprese con 20, 25, 50 dipendenti stiano adesso così ottenendo chissà quali prestiti bancari. Cioè, il tema c'è tutto, lo hanno ricordato anche vari esponenti. E poi però, come dicevamo nella Fattoria degli animali di Orwell, tutti gli animali sono uguali, ma alcuni animali sono più uguali degli altri, perché nel caso della vicenda Zunino, poi vedremo cosa dirà la magistratura, però quello che emerge chiaro è che le banche hanno prestato a Zunino e alla sua società a risanamento tantissimi soldi, immagino a ragion veduta, ci mancherebbe, non abbiamo modo per dubitarne né motivo, però insomma qualche imprenditore ci sta scrivendo un po' arrabbiato quando ha scoperto che Zunino aveva ottenuto per ogni euro di capitale 35 euro di prestiti. Ora fatevi i calcoli a seconda dell'attività che avete, se per ogni euro, 1000 euro, voi ottenete 35.000 euro di prestiti, forse avremmo risolto i problemi di molte piccole imprese in questo momento. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. Devo dire che a chi insulta dicendo che l'economia non riparte con le liberalizzazioni, sicuramente non è l'unico elemento, però in tutto il mondo ciò che è stato liberalizzato costa meno. Vale anche per le farmacie, mi dispiace se lei fa il farmacista, visto che la legge Bersani valeva solo sui farmaci da banco, e non mi venite a raccontare che c'è il presidio della farmacia sulle aspirine vendute, perché questo è un programma serio. e non ironico. E ancora, pensate solo ai prezzi della telefonia, sono crollati negli ultimi 10 anni grazie anche alla concorrenza che c'è tra i vari operatori. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare allora di Zunino, di risanamento, di chi ottiene crediti dalle banche senza grossi problemi, di chi invece i problemi li ha sempre, anche se chiede 50.000 euro non c'è nessuna demagogia, però sono quasi 4 miliardi di euro i crediti più o meno incagliati in Intesa San Paolo, Unicredito e Banca Popolare concessi a Zunino, poi senza nessuna demagogia e populismo non mi venite a raccontare che non ci sono i soldi per i piccoli imprenditori. È il problema, lo ripeto, è inutile che si offenda qualcuno, degli animali della fattoria di Orwell, tutti sono uguali, poi c'è qualcuno, se non ricordo male il maiale, che è più uguale degli altri. Allora, questo è il primo tema. Oggi devo dire che poco fa, di nuovo, mi dispiace fare, non mi dispiace, ma sembra quasi una puntata monotematica sul governatore Draghi, però è intervenuto Mario Draghi poco fa in commissione antimafia e ha detto attenzione, perché dallo scudo fiscale, lo scudo fiscale non è di per stesso negativo, però negli altri paesi non esiste l'anonimato per quello che riguarda lo scudo fiscale, cioè questo vale a dire attenzione al riciclo del denaro sporco dei proventi della mafia, la camorra, l'andrangheta, perché se tu sei anonimo hai voglia di dire che non può rientrare in Italia il denaro frutto della criminalità, e come fai a saperlo? Mica c'è scritto sulle banconote. E infatti Draghi chiede un presidio antiriciclaggio. Altri paesi hanno introdotto provvedimenti che favoriscono l'emersione spontanea di queste attività detenute illecitamente all'estero. Tra questi voglio ricordare gli Stati Uniti, la Francia e il Regno Unito. Sotto il profilo fiscale, i provvedimenti adottati da parte di questi paesi mostrano differenze rilevanti rispetto allo scudo italiano. Si tratta infatti di provvedimenti che non prevedono l'anonimato del contribuente e, secondo, provvedimenti nei quali l'emersione comporta il pagamento dell'intero ammontare delle imposte dovute e non versate, inclusive degli interessi per ritardato pagamento. A queste somme si aggiunge talvolta una sanzione, seppur ridotta, rispetto a quanto previsto ordinariamente dalla legislazione tributaria. In altre parole, la sanzione prevista dalla legislazione tributaria sarebbe molto al di sopra di quella che viene effettivamente fatta pagare, ma vengono pagate tutte le imposte arretrate e gli interessi sulle imposte. E in alcuni paesi non si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste per questi paesi. Per questi reati. Vabbè, speriamo che l'appello e il richiamo del governatore venga preso in considerazione, perché l'ultima cosa che vorremmo in questo periodo è far rientrare i capitali della mafia, della camorra, dell'andrangheta pagando un 5% di contentino. Altra cosa invece, fare di fatto un condono così valutario per ottenere dei soldi, 3 miliardi più o meno si attende il governo, non sarà il migliore dei modi possibili, non sarà un principio eticamente fantastico, ma tant'è, questa è la situazione nel paese e è giustissimo dire bisogna combattere l'evasione, ma sappiamo tutti che nel combattere l'evasione passerebbe almeno un anno e qui ci vogliono soldi abbastanza a breve, anzi a brevissimo. Ancora sulle liberalizzazioni, va bene, allora, visto che dice che la telefonia è crollata come prezzi in Italia, lo so che in Gran Bretagna costa un po' meno telefonare, però se voi prendete i dati Istat negli ultimi 3 anni c'è solo una voce che ha sempre il segno meno, dati Istat, no dati di Barisoni, il segno meno nei costi, cioè è in deflazione costante, è la voce telefonia e comunicazioni. Sarà perché ci sono 4 operatori in concorrenza? Secondo me sì. Le farmacie, non mi dispiace irritare i farmacisti, però dal decreto Bersani del 2006 sono stati aperti in 3 anni 3.000 parafarmacie con 5.000 persone che vi lavorano, in molti casi laureati in farmacia. Gli sconti sui farmaci da banco a quel punto, in tutto e non solo nelle parafarmacie, anche nelle farmacie normali, sono passati dal 3% al 22% e mezzo, e l'aspirina in Italia inizia a costare come in Spagna, in Olanda e in Francia, cioè 0,2 euro per dose e non gli 0,3 di prima. Questo si può dire? E si può dire che è sbagliato con un decreto voluto dalla lobby dei farmacisti? Penso, abbiamo cercato anche il senatore Tomassini per un decreto che è in Parlamento per eliminare di fatto la possibilità alle parafarmacie di vendere i farmaci da banco. Si può dire? Si può dire che Zunino ha ricevuto quasi 4 miliardi di crediti dalle banche che adesso non sanno come rientrare, mentre la maggior parte degli imprenditori che ci scrivono non ricevono 400 mila euro, 40 mila euro, se non garantendo anche la moglie, la figlia e quant'altro. Questo si può dire? Secondo me sì, e ne parliamo adesso. Ecco perché saluto Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Buonasera Laura. Buonasera a voi. Ormai specializzata in risanamento, inteso come SPA. Allora, due giorni fa si è dimesso Zunino, l'udienza del Tribunale sarà il prossimo 29 luglio. Vediamo poi le ipotesi che stanno prendendo piede, ma possiamo ricordare, perché molti lo chiedono, perché la Procura è intervenuta? Perché un conto è la situazione contabile e finanziaria, un conto l'intervento della magistratura. Allora, la Procura è intervenuta perché nel corso di 3 differenti procedimenti, uno penale che coinvolge Banca Italease e altri 2 civili che sono Sadi e IPI, è emerso sostanzialmente uno stato di insolvenza della società Risanamento, perché queste 3 società hanno sostanzialmente lamentato di fronte al giudice il fatto che Risanamento non era in grado di ripagare i debiti contratti nei confronti di queste 3 aziende. Queste 3 segnalazioni hanno sostanzialmente portato il procuratore ad avviare un'indagine. Nell'avviare questa indagine ha ottenuto il supporto di 2 consulenti che hanno stilato sostanzialmente un documento dal quale fanno emergere che effettivamente la società si trova in uno stato di insolvenza a detta loro, dal quale non può recedere, cioè un vero e proprio fallimento, non uno stato di impossibilità temporanea ad adempiere ai propri obblighi. Per cui dice, di fatto tu sei fallito e a quel punto io apro un'inchiesta. Allora, a quanto ammonta l'esposizione bancaria? Anche qui abbiamo letto un po' di tutto. Quello che è certo è che, se ho ben capito Laura, l'esposizione bancaria nei confronti di Risanamento, cioè la società che poi possiede le proprietà immobiliari, quindi Santa Giulia, l'area Falck, è di 2 miliardi e 900 milioni, una cosa del genere. 2,9. E invece poi c'è un altro indebitamento che pertiene, che va a monte, cioè le holding della Galassia Zunino che controllavano il Risanamento, e lì siamo intorno a 1 miliardo? Esattamente, più o meno le cifre sono queste. E quindi siamo sui 4 miliardi complessivi. Esattamente. Adesso io vorrei capire una cosa: che cosa può succedere dal punto di vista della magistratura, cosa potrebbe capitare il 29 luglio e come le banche stanno pensando, attraverso Salvatore Mancuso, di rientrare da queste esposizioni, perché 4 miliardi sono 4 miliardi. C'è l'ipotesi di un prestito convertendo, un aumento di capitale, insomma, vediamo di capire. Allora, sostanzialmente è difficile ipotizzare che in questa situazione le banche si limitino a concedere nuovi finanziamenti alla società, perché il nuovo finanziamento servirebbe esclusivamente per sostenere la gestione corrente, mentre a quel punto non potrebbe consentire la ristrutturazione della società. E quindi è una società che ha bisogno di essere ripatrimonializzata, il che significa che va messa della cassa, quindi o attraverso un aumento di capitale puro, che può anche essere fatto con la conversione di alcuni crediti delle banche, oppure attraverso un prestito convertendo, il che permetterebbe alle banche di concedere a Risanamento nuova cassa sotto forma di debito che però a 3-4-5 anni si trasforma in capitale, e per cui di fatto viene interpretato come una sorta di aumento di capitale anche questo strumento qua. Però la soluzione è questa sostanzialmente: iniettare nuova cassa. A questo punto c'è il confronto interno delle banche, perché ovviamente c'è chi è d'accordo, c'è chi ha ancora dei dubbi, c'è chi non è ancora sicuro che si possa effettivamente procedere a una ristrutturazione di Risanamento. Allora, adesso dobbiamo mandare le informazioni perché in viaggio poi concludiamo anche il ragionamento. Ha ragione, devo dire, chi scrive, dice certo che se si pensa che lo sforzo, anche uno sforzo importante del governo per le piccole e medie imprese, è stato di 1,5 miliardi, anche a me risulta questo, per i crediti alle imprese, e poi le stesse banche hanno dato 4 miliardi a Zunino, cioè viene un po' da mettersi le mani nei capelli. Lo so, erano altri anni, non voglio giustificare le banche in questione, erano altri anni, gli immobiliaristi ottenevano soldi in maniera facile, beh, anche questo spero che si possa dire, e adesso ne vediamo le conseguenze, speriamo che serva anche di lezione. Ultima parte di Focus Economia con voi sempre Sebastiano Barisoni. Allora, Laura Galvagni, le ipotesi allo studio. Intanto, quali sorprese potrebbe riservare il Tribunale? Perché abbiamo capito che lo stesso PM greco che si sta occupando, che sta seguendo da vicino, anche se non è lui che ha in mano il dossier, la vicenda di Zunino, è greco, voglio dire, è una persona che la sa lunga su queste vicende. Normalmente va a fondo. Normalmente va a fondo, non a fondo, ma nel senso no. Va a fondo e a fondo ci va qualcun altro, ma soprattutto quali sorprese potrebbero uscire e quanto forte è l'ipotesi di cedere gli asset, cioè quindi di fatto le proprietà immobiliari? Sicuramente c'è una possibilità che si ipotizzi anche un piano di cessione degli asset immobiliari, a quel punto probabilmente riguarderebbe gli asset più di pregio che Zunino ha in portafoglio, cioè tutta la parte parigina e tutta la parte americana, asset che potrebbe valorizzare anche in tempi piuttosto brevi, nonostante ci sia il dubbio che possano essere invenduti a prezzi inferiori rispetto a quelli che lui aveva pagato. Riguardo invece al Tribunale, come hai detto tu, l'udienza è fissata per il 29 luglio, le banche e la società stessa si stanno adoperando per presentare un piano credibile, ma poi ovviamente la parola spetterà al giudice, sarà lui sostanzialmente che dovrà decidere se questo progetto può realmente portare il risanamento fuori dalle secche o se non è sufficiente. Difficile stabilire adesso i tempi con i quali il Tribunale deciderà, anche perché suppongo che un minimo di riflessione sarà indispensabile, c'è anche il problema che poi il Tribunale nel mese di agosto chiude e quindi c'è il pericolo che tutto il dossier possa slittare a settembre. Se lo augurano in pochi, tutti sperano che ci sia una decisione veloce e che in un modo o nell'altro la situazione si possa risolvere. Ma grazie. È tutto in mano al giudice. Grazie, non si sarebbe mai dovuti arrivare a questa situazione. Grazie Laura Galvagni del Sole 24 Ore. Rapidamente la borsa, perché poi il tema di borsa oggi è stato anche il risanamento sospeso per eccesso di rialzo dopo la sbella che ha preso in questi giorni, ma è stato anche Fiat e di questo parleremo tra pochi secondi. Rapidissimi la borsa. Italismo 8,21%, dico rapidissimi, lo dico anche a chi scrive perché oggi non è una giornata in cui ci sono stati grandissimi temi, a parte Fiat risanamento. Tamburi investimenti TIP meno 5,5%, indice meno 4,40%, i peggiori titoli sono questi, i migliori sono Seat, pagine gialle sul risparmio più 9,9%, Gemina più 10,8% sul risparmio non convertibili, Ansaldo STS che fa segnaletica, non segnalazioni, grazie alla commessa da 500 milioni di euro in Libia, per quasi 500 milioni, anzi 540 per essere proprio precisi, in Libia per la rete ferroviaria libica, è il miglior titolo dell'S&P, magari del FTSE MIB, e anche tra i migliori in borsa. Ansaldo STS guadagna il 6,1, Telecom Italia più 3,7 come Bulgari, Parmalat più 2,7, Luxottica più 2,2, Buzzi Unicem più 1,3 come Enel e Mediobanca, ma anche Geox, Terna più 0,90, Monte dei Paschi più 0,7 come Atlantia, Unipol, Mediaset e Prismian. Fronte opposto, Popolare di Milano meno 1,4, Fondiaria meno 0,90, Lottomatica meno 0,90, Autogrill meno 8,6, Eni meno 0,6% e A2A meno 0,5%, il peggior titolo Fiat meno 1,70%, ed è l'ultimo tema di questa puntata. €7,80 la chiusura per Fiat, che ha presentato oggi i conti del secondo trimestre del gruppo. Perdita netta peggiore dell'anno scorso, 179 milioni nel secondo trimestre contro un utile di 640 milioni l'anno scorso. Ricavi anche questi in calo a 13,2 miliardi, meno 22% rispetto ai 17 miliardi del 2008, gestione ordinaria anch'essa in calo rispetto all'anno scorso. Direte un bilancio tutto negativo? Beh, no, perché È vero che il fatturato scende dell'11% a 6 miliardi e 9, ma l'indebitamento di Fiat è calato di quasi un miliardo, scende a 5 miliardi e 7, la liquidità è aumentata di oltre un miliardo rispetto al primo trimestre, a 6 miliardi e 400 milioni. Sentiamo Marchionne commentare questi, Sergio Marchionne, numero uno del gruppo, commentare in conference call, quindi in inglese, con gli analisti, i risultati. Think that the Fiat's performance in the quarter, view it in the context of our competitors, not only on the car side, but in terms of the truck and the construction and agricultural equipment business. E dice Marchionne che, considerato il contesto e i concorrenti, i dati sono buoni non solo sul fronte auto, ma anche su quello camion, macchine agricole e per costruzioni. Un secondo trimestre che è terminato comunque sopra le attese del gruppo, un grande lavoro di organizzazione per evitare un intasamento, ha detto Marchionne, nei canali di distribuzione. Molto bravo il gruppo Fiat a mantenere una certa disciplina, e ci muoveremo su queste linee anche per il resto del 2009, aspettando la ripresa che arriverà nel 2010. E qui già c'è una chiave di lettura: dati negativi ma migliori delle attese. Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore, in questo momento a Torino, buonasera. Buonasera a tutti. È così, aiutaci tu. Beh, sì, i dati sono appunto in chiaro scuro, il peggioramento c'è rispetto, in termini di utile netto, per dare un'idea, sono circa 800 milioni peggio dello stesso trimestre dell'anno precedente, un peggioramento in linea con quello del primo trimestre, un peggioramento che è legato, come Marchionne ha sottolineato e come tutti possono immaginare, a una congiuntura che per l'auto è stata molto negativa, anche se nel secondo trimestre è migliorata, mentre è peggiorata ancora per le macchine movimento terra e per i camion. Sono mercati in cui c'è stato un calo del fatturato spesso tra il 40 e il 50%. In queste condizioni, per esempio, Marchionne ha sottolineato positivamente il fatto che Iveco, che era in rosso nel primo trimestre, è riuscita a chiudere con un attivo operativo, sia pure molto risicato, nel secondo. Il tutto grazie all'utilizzo di strumenti come la cassa integrazione, al contenimento delle spese, sia generali che di marketing che anche di ricerca, quindi a un tirare la cinghia su tutti i fronti, il che ha portato a una performance che, come avete ricordato forse anche voi, è relativamente buona rispetto a quanto stanno facendo i concorrenti. Non saranno molti i gruppi del settore auto che quest'anno riusciranno a chiudere il bilancio in attivo. Marchionne, dal canto suo, ha, per quanto riguarda l'intero 2009, confermato oggi gli obiettivi, che sono di un utile netto positivo, sia pure di 100 milioni di euro o poco più, e un utile operativo di 1 miliardo di euro. Vedremo ovviamente nella seconda parte dell'anno anche come si evolverà la congiuntura dell'auto. Da questo punto di vista sono stati molto importanti gli incentivi alla rottamazione varati in quasi tutti i grandi mercati europei. Fiat ne ha approfittato grazie alla sua gamma di auto economiche, ecologiche e piccole, guadagnando quota di mercato. Se continuerà a fare così nel secondo trimestre, la strada verso il raggiungimento degli obiettivi di Marchionne sarà sicuramente più facile. Un grosso punto di domanda resta sul 2010, nel senso sì. Che Prego Andrea. Se gli incentivi dovessero essere rimossi, ci sono alcuni analisti, per esempio quelli di Standard & Poor's, che stimano un forte calo delle vendite di auto in Europa rispetto a quest'anno, un calo tra 1,5 milioni e 2 milioni di unità, quindi diciamo che il rischio è che il calo che non c'è stato quest'anno, la tenuta del mercato di quest'anno, venga pagata l'anno prossimo. Per questo Marchionne si è detto naturalmente favorevole a che gli incentivi, in termini ecologici, sì, quindi di calo dell'inquinamento, siano mantenuti anche l'anno prossimo. Beh, non poteva non essere così. Comunque, grazie Andrea Malan, perché ci ha aiutato a capire come mai, nonostante dati negativi, ci sia soddisfazione e mantenimento degli obiettivi nel gruppo Fiat. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Devo dare alcune risposte sulla liberalizzazione, le facciamo domani, anche sulle banche e che restringono il credito alle imprese, l'ha detto il governatore Draghi, non l'abbiamo detto noi, siamo già però in ritardo. Da Sebastiano Berisoni le auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi.